do la parola adesso all'ultimo delle nostre relazioni al professor Umberto Mazzone sul tema l'opera di Hubert Yedin come editore. Se oggi mi trovo qui a parlare di Yedin come editore, lo debbo allo stesso Yedin. Fu infatti lui che fece sì che la Görres Gesellschaft si interessasse alle fonti per la storia economica del Concilio di Trento e che ne accettasse l'edizione nella sua collana del Concilium Tridentino. Un'edizione che ho appunto condotto in questi ultimi tempi e che ora mi appresto a licenziare. È con questo animo grato che ho accolto quindi l'invito a svolgere questa modesta comunicazione. Una comunicazione che vuole essere e può essere solo un primo tentativo di delineare l'opera di Yedin come editore di fonti. Devo chiarire sin dall'inizio che essa presenta un grave limite. È basata solo su documentazione edita, ovvero edizioni curate da Yedin, sue recensioni e recensioni ai suoi lavori. Se in futuro si vorranno ampliare queste primissime note, ci si dovrà rivolgere obbligatoriamente ad altre fonti, penso soprattutto alla corrispondenza di Yedin e alle linee direttive o alle discussioni nate durante la sua direzione della società del Corpus Catholicorum che appunto diresse dal 1954. La comunicazione è divisa in tre parti. La prima riguarda l'atteggiamento di Yedin verso la edizione di fonti in linea teorica o metodologica. Seconda parte riguarda i vari periodi dell'opera di Yedin in relazione con le fonti pubblicate. La terza, più tecnica, riguarda i criteri di metodo indicati da Yedin come ottimali per l'edizione di fonti. Iniziamo dall'atteggiamento di Yedin verso la edizione. Con Hubert Yedin ci troviamo di fronte a un grande storico che è anche un editore non occasionale. A un editore che, secondo le parole di Bushbell nella sua recensione al Seripando, mostra eine hervorragende Begabung für die Arbeiten des Herausgebers, così nel 38 sulla Theologische Revue. Ma anche, rovesciando l'immagine, a un editore che è anche, e sottolineo anche in questo caso, storico. Le due componenti dell'attività scientifica di Yedin non paiono scindibili, in quanto una diviene forza dell'altra. Si farebbe, credo, una grave riduzione delle dimensioni del suo lavoro e probabilmente non lo si comprenderebbe in pieno nella sua interezza se la sua opera come editore di fonti venisse in qualche modo considerata a sé stante o secondaria rispetto all'impegno di storico propriamente detto. In lui l'edizione di un testo non si esaurisce mai in se stessa, non assume mai un valore di compiutezza e non si risolve in un esercizio di pura erudizione, magari anche ad alto o ad altissimo livello, ma è invece sempre finalizzata ad uno scopo ben preciso, quello di raccogliere e predisporre gli elementi necessari, i bausteine, i mattoni per la successiva analisi storica. D'altra parte, proprio in virtù di questo scavo documentale previo, il lavoro di storico poggia sempre su un solido terreno accuratamente preparato filologicamente e documentalmente dalla critica delle fonti, dalla ricostruzione della loro genesi e del loro tramandarsi. Per questo aspetto si pensi solo al Quellen Apparat del Pallavicino. Il tutto seguendo, come lui stesso afferma, un umständlichen und schwerfälligen Weg, come appunto scriveva nella introduzione al Seripando nel 1937. Un cammino, un Weg, che Yedin ha percorso con rigorosa coerenza per quasi mezzo secolo, in oltre 30 edizioni di fonti, dalle prime del 1927. Un metodo, un modo di porsi di fronte agli scopi dell'edizione che parrebbe, meno questa è la sensazione, che parrebbe essere saldamente basata anche su una tesi di Droysen, das Ergebnis der Kritik ist nicht die eigentliche historische Tatsache, sondern dass das Material bereit gemacht ist, eine verhältnismäßig sichere und korrekte Auffassung der, zu ermöglichen. Così una tesi della historik. Ed è sul piano della sintesi, nella capacità di operare consapevolmente delle scelte, che si ricompongono i due aspetti dell'opera di Yedin, storico ed editore. Ed è forse appunto su questo piano che si ricompongono anche certe dicotomie o divergenze che possono apparire tra concezioni teoriche della storia della Chiesa e il concreto fare storia della Chiesa di Yedin. Solo la sintesi storica, nutritasi abbondantemente sulle fonti, può collocarle giustamente, senza dispersioni o sopravvalutazioni. I fondamenti di una tale filosofia dell'edizione li troviamo esplicitamente formulati nell'esame di coscienza di uno storico. Es gibt keine, in questa polemica appunto con una storiografia positivista. Es gibt keine Synthese ohne Spezialforschung. Aber was ist Spezialforschung ohne Synthese? Können Steinmetzen die Säulen, Fensterbogen, Gesimse für einen Dom behauen, ohne einen Plan zu besitzen? Was nutzt die Aufhäufung von Baumaterial, wenn man den Bau nicht beginnt? Una concezione che affonda profondamente le sue radici nella tradizione metodologica della storiografia classica tedesca. Come non paragonare queste parole con quelle di Ranke? Da die Geschichte eine empirische Wissenschaft ist, begegnet es ihr nur zu oft, dass sie sich in Einzelheiten zersplittert. Nur wer jenes empirische mit den Ideen vermählt, kann den Geist wirklich anziehen. E per passare ad un altro versante dello storicismo tedesco, che cosa può apparire forse di più droiseniano che avvertire il pericolo che la ricerca storica possa degenerare in una raccolta senza scopo di dettagli, se il sapere non si confronta con gli scopi generali della conoscenza storica o con gli scopi generali, nel nostro caso, della storia della Chiesa come teologia e storia. Quella che pare essere la caratteristica prevalente di Yedin come editore è il possesso da parte sua di un piano, di un progetto storiografico ben chiaro e formulato con intima coerenza. La scelta delle fonti da pubblicare non pare essere in lui causa, bensì conseguenza dei suoi interessi di analisi storica. Ed è proprio la stessa correlazione in lui istituitasi tra il dominio delle fonti, che non significa solo conoscenza, e lo scrivere storia che lo porta a esprimere un giudizio estremamente fedele, un giudizio estremamente severo verso una erudizione chiusa in se stessa. Un giudizio che forse lo farebbe probabilmente concordare con un'altra opinione del Droysen, secondo il quale wohl keine Disziplin, come la filologia, der Gefahr des geschäftigen Müßigganges näher sei als sie. Una citazione da Meinecke nello studio su Droysen. Scriveva infatti ancora Yedin nella sua Gewissen Erforschung, sempre in merito alla polemica con la storiografia positivista, Ilfs Wissenschaften wie Paläographie und Diplomatik wurden zum Selbstzweck erhoben. Es gab Professoren, für die das Alpha und Omega der Geschichte darin bestand, die Echtheit oder Unechtheit einer Urkunde aus ihren formalen und inhaltlichen Merkmalen exakt zu beweisen. Es gab andere, welche die Leistung eines Historikers nach der Zahl und dem Umfang der von ihm publizierten Quellenbände bemasse. Non che ovviamente Yedin disprezzasse o non riconoscesse il valore delle ricerche minute e delle indagini filologiche. Molti suoi lavori sono, come si diceva, capolavori in questo senso. Si pensi ancora, ad esempio, alla ricostruzione della tradizione delle fonti per il Seripan. Era il punto di partenza ad essere diverso. A un giudizio di fatto, l'essere inedito di un documento o la sua particolare originalità diplomatica veniva sostituito un giudizio di valore, l'importanza del documento ai fini della futura elaborazione storica. Wichtiges steht daneben vielen Unwichtigen, das ohne Kriterium publiziert wird, bloß deshalb, weil es ineditum ist. Es gibt in der spätmittelalterlichen und neueren Geschichte geradezu eine Jagd nach dem Ineditum, die oft und oft verbunden ist mit einer ganz unzureichenden Kenntnis der Edita, sempre nell'esame di coscienza. La domanda che si pone Jedin davanti a un documento è se la sua pubblicazione arricchisca la scienza storica di fonti così preziose che il relativo dispendio di mezzi e di lavoro siano giustificati. Così in osservazione, una citazione da Osservazioni sulla pubblicazione delle Nunziature d'Italia nel 63. Nel caso che l'esame del documento portasse a una risposta affermativa, l'edizione non doveva divenire il bel soprammobile o il bel quadro in salotto, ma essere quello per la quale valeva, strumento di lavoro, e sottolineo strumento di lavoro, una funzione estremamente pragmatica. Così un'edizione avrebbe dovuto rendere possibile il controllo delle conclusioni quando fosse stata allegata ad un lavoro di ampia analisi storica, sottolineando con ciò il carattere ipotetico ed empirico delle affermazioni dell'analisi storica e deducendone la possibilità e la necessità della loro verifica storica, si confronti a questo proposito l'introduzione al Seripando, oppure rendere disponibile il testo per ulteriori ricerche. A questo proposito l'introduzione a Crisis un verdetto. Questa ansia, questa preoccupazione che le fonti fossero sempre intese per quello che dovevano essere, strumenti di lavoro, sono alla base di una discussione che attraversa numerose recensioni di Jedin alle varie serie delle relazioni delle Nunziature. Per fare un esempio che si riprenderà più oltre quando si analizzeranno i criteri tecnici proposti da Jedin per un'edizione di fonti, introduzioni troppo minuziose sugli avvenimenti politici in cui i rapporti dei nunzi si collocavano facevano correre il rischio che si desse tutto già per scontato, per già visto, e che non ci si confrontasse più in maniera dialettica e scientifica con il testo. E da questa paura, da questa preoccupazione degli Edin nasce una citazione molte volte ripetuta che appare con estrema frequenza, ovvero l'esperienza di un colloquio avuto con il pastor nel 926. In quell'occasione lo storico dei papi gli aveva confidato: ho esaminato tutti i volumi dei rapporti delle Nunziature, ma le assicuro che non vi sono 10 storici che hanno fatto la stessa cosa. Ovvero, ecco, la esigenza di confrontarsi in maniera precisa e pragmatica e di lavoro con le fonti, più che la ricerca filologicamente in sé esaustiva del inedito o della perfezione tecnica nella edizione. La seconda parte, i vari periodi dell'opera, mi scuso se appunto alcune cose possono rimanere sottintese, ma i 20 minuti di tempo mi costringono un pochino a sintetizzare alcune cose. I vari periodi dell'opera di Jedin in relazione con le fonti da lui pubblicate. Possiamo agevolmente riconoscere tre centri nell'interesse editoriale di Jedin. Il primo, il tema della riforma e del Concilio di Trento, che copre praticamente tutto l'arco della vita scientifica di Jedin. B. Tre incursioni nel 1600, tutto sommato abbastanza occasionali, nel 1931 e nel 1938. In ultimo, l'edizione degli atti relativi ad Augustin Theiner, finalizzata a fornire elementi per una biografia dell'editore degli Acta Genuina Concilii Tridentini, condotta in numerosi articoli dal 71 al 74. Riforma e Concilio di Trento. In nessun altro campo di ricerca come in questo, le fonti pubblicate sono servite, tramite un gioco di intrecci e di rinvii, a costruire edifici, sono stati veri e propri mattoni. Così per quello che è il primo, o al massimo il secondo, lavoro di edizione di Hubert Jedin, Ein Streit um den Augustinismus vor dem Tridentinum, nel discutere, apparso in Römische Quartalschrift del 1927, nel discutere un conflitto tra predicatori intorno all'Agostiniano Museus, da cui nacque un'ampia serie di trattati sulla dottrina agostiniana della predestinazione, nel descrivere un codice della Biblioteca Nazionale di Napoli e nel pubblicare due lettere di Gasparo Contarini, egli compie, consapevolmente o inconsapevolmente, già un lavoro preparatorio sia per la biografia del Seripando che per la storia del Concilio di Trento. L'articolo verrà infatti ripreso sia nel Seripando, ripetutamente, sia nella Geschichte des Conziles von Trient, nel primo volume. Lo stesso si può dire per l'articolo dell'anno successivo, le lettere del vescovo Jakob von Salza, apparse nello Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens del 1928. Le proposte del vescovo di Breslavia, Jakob von Salza, per la urgente convocazione del concilio e la istituzione di una centrale di propaganda cattolica in Germania, vengono infatti utilizzate e discusse più tardi anche nella storia del Concilio di Trento, nel primo volume. Un intreccio, un rinvio continuo tra lavori preparatori, edizione di fonti e opera di complessiva sintesi storica che non viene meno neppure in seguito. Così, se nel 1955 usciva da lui curato il testo del diario conciliare del vescovo Julius Pflug in Römische Quartalschrift, se ne troverà la piena utilizzazione e descrizione critica nel terzo volume della storia del concilio. Seguendo da vicino il farsi del lavoro, ci si rende però anche conto che l'utilizzazione delle fonti edite in precedenza non è una meccanica trasposizione di dati già acquisiti in un'opera di dimensioni maggiori. Il rapporto appare, il più delle volte, molto più vivace e creativo. Gli studi preparatori rimangono ancora una volta semplici strumenti di lavoro, che vengono continuamente rielaborati contemporaneamente alla crescita del giudizio storico dell'autore. Un esempio di questo rapporto in crescita con le fonti, che non ha mai per scontati i risultati acquisiti, lo possiamo ritrovare nella pubblicazione e nella elaborazione dei rapporti del vescovo di Viterbo Sebastiano Gualterio, inviati da Trento al cardinal nepote Carlo Borromeo dall'ottobre-novembre 62 sino al giugno 1563. Come è noto, scopo fondamentale della missione del Gualterio a Trento era quello di curare le relazioni con la delegazione francese in concilio, guidata dal cardinal de Guise. All'interno della politica nei confronti dei francesi si inserisce anche la pratica, ovvero il tentativo abbastanza tortuoso, ideato dal Gualterio e appoggiato dal Papa, per porre fine rapidamente al concilio. Nei diversi momenti in cui Edin affronta questa problematica è facile riconoscere un profondo modificarsi e articolarsi del giudizio. Nell'articolo del 1935, in Römische Quartalschrift, di Berichte des Sebastiano Gualterio von Trienter Konzil, in cui dà conto per la prima volta del ritrovamento dei rapporti del vescovo di Viterbo, già ripetutamente utilizzati dal Pallavicino nella sua storia, presso l'archivio dell'Università Gregoriana di Roma, la valutazione della missione di Gualterio appare ancora assai positiva. Mentre il cardinale Morone, che proprio con le sue decisioni vanificò la pratica, non gioca ancora nessun ruolo. Morone non compare. E il giudizio conclusivo in questo primo articolo del 35 è questo. Als er, Gualterio, im Juli 1563, die Konzilsstadt wiederverließ, war Kardinal Guise für die Politik der Kurie gewonnen. Und damit der entscheidenden Schritt zum glücklichen Abschluss der Tagung getan. Se inizialmente, quindi un giudizio, come dicevo, estremamente positivo, pare, su Gualterio. Se inizialmente il progetto era quello di pubblicare parte delle relazioni in breve tempo negli storici Siarbuch, l'attesa si prolungò per motivi indipendenti dalla volontà di Edin sino al 41, quando uscì a Würzburg Crisis und Wendepunkt. Il ritardo è, in fin dei conti, una fortuna, sia perché nel tempo maturò la decisione di una edizione autonoma e completa degli importanti documenti, sia perché la valutazione sul loro contenuto ebbe modo di affinarsi. Ed è dalla consuetudine con i documenti, dal sezionarli, che il giudizio si modifica, che prendono contorno lo svolgersi dei fatti e, in questo caso, anche degli intrighi, che le varie personalità acquistano la loro vera dimensione. In Crisis und Wendepunkt, la personalità di Gualterio, non l'importanza dei suoi rapporti, viene decisamente ridimensionata rispetto agli accenni del 35, mentre predominante diviene la figura del cardinal Morone, il cui ruolo decisivo già si staglia tutto intero. Per finire, col giudizio sulla pratica, ideata appunto dal Gualterio, esist morones grosse stat, das er diesem Fehlgriff verhindert hat. Un giudizio che è già quasi quello definitivo, ma che nella storia del Concilio, nel quarto volume, si rafforzerà ancora di più nella consapevolezza della funzione svolta dal morone nel condurre a termine il Concilio. Edizione critica, nel senso più alto del termine, è quella del 38, del volume 13, prima parte della serie dei trattati del Concilium Tridentinum della Gioiosa Ecclesia. Vi sono pubblicati 114 documenti dalla traslazione del Concilio a Bologna sino alla sessione 22 del settembre 62. Ma su questo non parlerò, perché il professor Ganzer già ieri si è soffermato su questa edizione, su questo problema. Ma forse il capolavoro nella produzione iediniana, in cui si realizza una perfetta simbiosi tra testo e edizione di fonti, è la biografia del Seripanto. In 216 pagine sono riportate 95 documenti relativi al generale degli Agostiniani. Veramente mai come in quest'opera, i documenti non sono un'appendice al testo e il testo non è una introduzione ai documenti. Solo da questo rapporto, in cui nessuna delle due parti prende un sopravvento scientifico, ma in cui ciascuna costituisce la precondizione per esistenza e lo spessore dell'altra, Jedin riesce nicht nur den Theologen und Ordensreformer, den Bischof und Konzilslegaten, nicht nur den Sohn seiner Zeit und der Mitgestalter uns vor den Augen zu führen, sondern den Menschen selbst, sein zeitliche und überzeitliches Wesen. Questo nella recensione di Bushbell al Seripanto del 38. Veniamo ora al diciassettesimo siglo. Solo in tre occasioni Hubert Jedin si interessò come editore al 1600. Si tratta di pubblicazioni che paiono essere state stimolate soprattutto da motivi contingenti, come l'arrivo di un nuovo fondo alla biblioteca o all'archivio Vaticani e la necessità di riordinarlo. Così nel settembre 1929 il marchese Benedetto Guglielmi lasciò alla biblioteca Vaticana i manoscritti di Giovanni Battista Barzotti, agente di vescovi tedeschi presso la Curia Romana. Tale incarico affidato a Jedin di riordinare il fondo scaturiscono due articoli, il primo uno studio biografico sul Barzotti, contenente sei documenti, mentre il secondo è centrato su una relazione di Ottavio Piccolomini relativa alla fine del Wallenstein. Un'altra incursione è causata dall'ingresso tra i fondi dell'archivio segreto vaticano dell'archivio della Nunziatura di Vienna, da non confondere con la sezione più vecchia dello stesso archivio. Tra di essi vi è un memoriale, composto probabilmente dal gesuita Christoph Weller, sulla Controriforma in Slesia, di cui Jedin farà appunto l'edizione e il commento nel 1938 in Archive für Schlesische Kirchengeschichte, oggi anche in Chiesa della Fede e Chiesa della Storia. Augustin, il terzo punto, Augustin Theiner. Ben più importante appare la decisione di pubblicare documenti relativi allo storico Augustin Theiner, l'autore degli Acta Genuina Concilii Tridentini. Nella sua frammentarietà, nella sua incompletezza, questa serie di documenti, 75 lettere indirizzate a Theiner o riguardantilo, e due suppliche dello storico slesiano al Papa volte a contrastare il divieto di pubblicazione dei monumenti a Tridentina, ci permette nuovamente di ripensare i criteri scientifici, i fini che sono alla base dell'opera di Jedin come editore. Consente infine di vedere il farsi, il costruirsi di una biografia, un genere letterario come qui già più volte è stato sottolineato, un genere letterario particolarmente caro a Jedin, un genere letterario che forse più di altri gli permetteva di interrogarsi su passato e presente. Alla edizione di fonti su Theiner sono dedicati 9 articoli, dal 71 al 74. L'interesse di Jedin per una biografia di Theiner, e qui ripeto, le mie fonti sono esclusivamente fonti edite, cioè la mia datazione è fatta su quando appare scritto, pubblicato, una attenzione. Appunto, probabilmente se si si rivolgerà a fonti inedite, sarà possibile specificare la cronologia in maniera molto più, sicuramente molto più, più puntuale. Dicevo che l'interesse di Iedin per la biografia di Tainer si era già manifestato nel 1953, quando gli dedicava alcune pagine in Kirchenhistoriker aus Schlesien in der Ferne, dove notava con rammarico che aus vielen Gründen hat Tainer bis heute keinen Biographen gefunden. Ancora nella voce per il Lexikon für Theologie und Kirche nel 1965 affermava che eine moderne Biografie ist ein dringendes desiderato. Nel 1970, un avvenimento casuale, il ritrovamento all'archivio segreto vaticano di parecchie centinaia di lettere indirizzate a Tainer e la loro catalogazione da parte di Hermann Oberg, fece venir meno una delle principali difficoltà oggettive, la mancanza di una sufficiente documentazione. Ancora una volta erano divenuti, come scriverà Iedin nella scritto su Tainer del 73, ancora una volta erano divenuti disponibili i Bausteine für eine künftige Biografie, una biografia che Iedin lasciava ad altri, anche se egli poteva già tracciare eine Bleistiftskizze. Si può concludere che anche questa ultima serie di edizioni di fonti, Iedin non lascia alcuno spazio al gusto dell'inedito, ma vuole solo tracciare le grandi linee di una biografia e mettere a disposizione di altri alcuni fondamentali strumenti di lavoro. Sempre nello scritto su Tainer del 73, «Er wird eine wichtige Aufgabe des künftigen Biographen sein, weiter nachzugehen als in dieser Skizze geschehen kommt». In margine alle ricerche su Tainer e poi anche da segnalare il ritrovamento nell'archivio vaticano, nell'archivio dell'oratorio romano, di un Denkschrift di Josef Ignaz Ritter che egli pubblicherà. Ecco, secondo me questi accenni a Tainer hanno soprattutto una importanza per quello che riguarda il metodo di vedere come Iedin raccoglieva il materiale, come avveniva la stesura o la costruzione di un quadro biografico. La terza parte, che è quella dei criteri di edizione ottimali per Iedin. Ampie esposizioni dei criteri ottimali, secondo Iedin, per condurre un'edizione critica, Le troviamo nelle numerose recensioni da lui curate. In particolare di estremo interesse è la lunga serie di interventi sul tema della pubblicazione degli atti delle nunziature. Una delle più importanti prese di posizione è in osservazioni sulla pubblicazione delle nunziature d'Italia, apparsa in Rivista Storica Italiana del 63. Necessario a questo punto, per comprendere la successiva discussione, ricordare, seguendo Iedin, le tre tipologie fondamentali di metodo usata nella edizione delle Nunziaturberichte. La prima, riproduzione letterale e completa del testo, preceduta da un'ampia introduzione, non solo sui documenti pubblicati o sui curricula dei nunzi, ma anche sugli avvenimenti politici in cui le relazioni si situavano. Nelle introduzioni avevamo pertanto anche una sintesi e un giudizio sul contenuto delle fonti stesse. Come già ricordato, Iedin dirà: «Bei den Nunziaturberichten besteht die Gefahr, dass sich denn der Historiker nach der Lektüre der Einleitung von den gründlichen Durcharbeitung der Depeschen und der einigen eigenen Urteilsbildung dispensiert. Da ja alles Wichtige doch schon gesagt sei», in una recensione del 61 alle Nunziaturberichte aus Deutschland. Esponenti di questa tendenza, chiamiamola così, della riproduzione letterale erano il Friedensburg, Cardanus und Kupke. B, cioè il secondo modello, una esposizione interpretativa con appendice di alcuni documenti più importanti. Un esponente di questa linea è Shell Hass. Infine il terzo modello, presentazione di testi fortemente abbreviati con ampio uso dei regesti. Il modello è Edenter. Questa modellistica è ricavata appunto dalle osservazioni di alle Nunziature d'Italia di Iedin in Rivista Storica. Il metodo proposto da Iedin per la pubblicazione degli atti delle Nunziature è, citazione, una via di mezzo tra i metodi del Friedensburg e del Dengel, ovvero tralasciando nei dispacci pubblicati integralmente ripetizioni che non dicono niente di nuovo, riproducendone il contenuto solo in forma di regesti. Per quanto riguarda le introduzioni, queste dovrebbero informare, citazione sempre, non solo sulle fonti, ma anche in maniera quanto più possibile esauriente, sulla provenienza, la vita e particolarmente sulla carriera dei vari nunzi. È necessario conoscere, per quanto possibile, la personalità dei nunzi per poter interpretare in modo giusto i loro dispacci. E qui, si è detto per inciso, riappare ancora una volta il gusto di Iedin per le biografie. Infine, veniva proposto che ogni volume fosse preceduto da brevi riassunti di tutti i dispacci pubblicati, poiché facilitano assai una visione di insieme. Ancora una volta mi pare di poter dire che il metro di giudizio non è immediatamente quello filologico, ma è qualcosa di più, di molto più esigente per certi versi. L'esattezza filologica rimane una condizione necessaria, ma non è più la condizione sufficiente. L'edizione deve essere uno strumento di lavoro affidabile non solo sul piano della filologia. Emerge così una certa irritazione quando vengono riportate minuziosamente le parti formali di una corrispondenza senza che venga dato un ragguaglio biografico sui corrispondenti. Sarebbe stato assai meglio, dice Iedin, operare la scelta inversa. Così nella recensione a diversi volumi degli Elementa ad Fontium Editiones dell'Istituto Storico Polacco di Roma, una recensione del 64 in Historisches Jahrbuch. Ma irritazione anche quando si dà il caso opposto, quando cioè il testo viene indiscriminatamente riassunto e il nunzio prende troppo poco la parola per lasciarla troppo spesso all'editore. Questa nella recensione alle Nunziature di Francia del XVI secolo. Per concludere, possiamo così schematizzare i criteri proposti da Iedin per un'edizione. A. Nella riproduzione del testo si raggiunga un compromesso tra completezza e uso dei regesti, secondo valutazioni di importanza. B. Siano eliminate tutte le forme di cortesia o ripetitive. C. In testa, almeno i documenti più lunghi, vada un riassunto per assicurare un veloce orientamento sul contenuto. D. L'apparato di commento dovrebbe liberare il lettore da ogni onere che l'editore avrebbe dovuto prendere su se stesso. E. Introduzione ampie che diano notizie sulle fonti e sulle persone, ma senza disperdersi troppo a voler inquadrare le fonti negli avvenimenti del tempo. Non è compito dell'editore di una fonte farne uso anticipatamente. L'uso invecchia, la fonte rimane. Così nella recensione alle Nunziature Berichte aus Deutschland del 61. Iedin intervenne direttamente anche nella questione della modificazione dei criteri di edizione della serie del Concilium Tridentinum, della Görres, relativamente ai protocolli di Angelo Massarelli, approvato. Stefano Eses, nei volumi da lui curati, aveva infatti inserito nei protocolli anche i voti dei prelati e teologi. Theobald Freudenberger, da parte sua, ha invece evitato di riportare i voti, considerando i protocolli come opera letteraria del segretario del Concilio e come tali da pubblicare autonomamente. Scriveva Iedin a questo proposito: «Diese Änderung der Editionsgrundsätze war kein leichter Entschluss, ist aber doch wohl zu rechtfertigen, und zwar nicht nur aus dem angegebenen Inneren, sondern auch aus praktischen Gründen, Questo nella recensione al sesto volume, parte prima del Concilium Tridentinum, edito da Freudenberger nel 50. Di nuovo, con questo Aus praktischen Gründen, riappare la fonte come strumento di lavoro. E, concludendo, un ulteriore punto che io non sviluppo. vorrei indicare all'attenzione del filologo. In uno sviluppo, in un proseguimento di questa indagine, andrebbe anche effettuata una collazione tra i testi editi da Iedin e gli originali per verificare dall'interno come i criteri di Iedin che abbiamo visto si siano poi trasferiti nella edizione. Per parte mia posso dire di aver fatto solo un piccolissimo sondaggio tra una edizione in grossa parte registrata di Iedin relativa ad atti della protesta imperiale contro la traslazione del Concilio di Trento a Bologna, apparse in Historisches Jahrbuch del 51, e l'edizione che Freudenberg ha fatto di questi atti, di questi protocolli, nel 72, nel volume 6, parte seconda del Concilium Tridentino. Il risultato è che, tolte alcune piccolezze marginali, riconoscibili soprattutto nell'uso della punteggiatura, la edizione, il testo o la trascrizione edita da Iedin è rimasta anche nella edizione, è stata anche accettata nella edizione critica di Freudenberger. Purtroppo appunto per questo aspetto ho avuto il tempo e la possibilità di fare soltanto questo brevissimo sondaggio che sicuramente il filologo dovrebbe sviluppare per probabilmente capire meglio la finezza di Iedin.